Europa 24. Un saluto da Anna Migliorati. Europa che guarda oggi agli effetti del piano della BCE lanciato ieri. Euro in caduta e i commenti. A Firenze l'incontro tra la cancelliera Angela Merkel e il premier italiano Matteo Renzi sentivamo. Si è parlato ovviamente anche di Europa e delle decisioni appunto della BCE. Molto bene, siamo soddisfatti di questo, però non basta una decisione per cambiare l'Europa. Io ripeto, ci sono almeno quattro fattori nuovi, non negli ultimi anni, nell'ultimo mese. Juncker e il piano degli investimenti, comunicazione della flessibilità, QE e rapporto dollaro-euro che poi parzialmente è la conseguenza di questo. Aus meiner Sicht ist es so, dass die Europäische Zentralbank ja ihre geldpolitischen Entscheidungen unabhängig fällt. Deshalb kommentieren wir das in Deutschland auch nie, nicht so rum und nicht so rum. Ho ovviamente sentito e analizzato tutto quello che è stato indicato ieri dalla Banca Centrale Europea. È un'opportunità in più. Il processo di riforma è molto importante. Sie können jetzt Menschen einstellen, sie wissen die Bedingungen, sie haben keine Angst, dass wenn etwas passiert. Credo che sia un processo appunto di riforma è molto importante, che dia inizio a un processo nuovo. Ma per l'Italia intanto l'avvertimento: la Commissione europea non ha ancora ricevuto dall'Italia i dati aggiornati sul bilancio 2015 necessari per completare l'analisi che finirà nelle previsioni economiche del 5 febbraio. Lo ha detto la portavoce del commissario al semestre europeo Valdis Dombrovskis. L'ultima data utile è oggi, ha spiegato la portavoce, precisando che c'è tempo, ma solo fino a mezzanotte. Intanto a Bruxelles si prepara il vertice lunedì dei ministri economici, un vertice atteso perché arriverà anche dopo il voto in Grecia. Sarà una riunione segnata dall'attendismo, quella che i ministri delle finanze della zona euro terranno lunedì prossimo, all'indomani di attese elezioni legislative in Grecia. Il paese, in grave difficoltà economiche, gode di un programma di aiuti internazionali fino alla fine di febbraio. Qui a Bruxelles molti si aspettano che il programma verrà rinnovato, possibilmente per altri 6 mesi, viste le perduranti difficoltà finanziarie. Il problema, naturalmente, è che i creditori dovranno trovare un accordo con il futuro nuovo governo. L'intesa conviene ad entrambe le parti, ma non sarà facile da trovare. I tempi sono stretti e il mese di febbraio rischia di essere segnato da accesi negoziati. Il prossimo Eurogruppo, dopo quello di lunedì prossimo, è fissato per il 16 febbraio. Beda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles. E ad Atene ormai giochi fatti, almeno per quanto riguarda la campagna elettorale, con uno sguardo proprio alle trattative a Bruxelles. Finisce a colpi bassi la campagna elettorale greca. Il premier uscente Samaras evoca la Corea del Nord, rinfacciando al giovane Tsipras di allontanare gli investimenti dal paese. Il leader di Syriza, forte dei sondaggi, punta il dito contro il premier e la sua nuova democrazia, definita una formazione di destra che ripete slogan della giunta dei colonnelli. Prevedibile l'inasprimento dei toni, visto che il 10% dei votanti dichiara di essere ancora indeciso. Una fetta consistente che potrebbe regalare a Syriza la vittoria assoluta, visto che il sistema greco è un proporzionale con premio di maggioranza al primo partito. A un passo dalle elezioni e preso atto che la sinistra radicale ha molti assi nella manica, anche l'Europa sembra guardare alla Grecia e a Tsipras con meno timore. Il paese ha compiuto passi in avanti, ha seguito lo schema della Troica, ha colmato le voragini nei conti. Certo, il debito resta altissimo, oltre il 170% del PIL, la disoccupazione è a doppia cifra, le emergenze sociali sono infinite, a cominciare dalla scarsità di medicinali, fatti di cui anche a Bruxelles devono tenere conto. Ecco perché se Tsipras andrà al governo potrebbe spuntarla almeno sull'allungamento delle scadenze del debito e forse anche su un taglio degli interessi. Nel frattempo lui festeggia in piazza Omonia come se avesse già vinto sulle note di Bella Ciao. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ci torneremo a cominciare dall'appuntamento di Europa Notte questa sera, naturalmente con Europa 24 alle 14 dopo il voto ad Atene. Ci fermiamo qui intanto per oggi. Ancora un saluto da Anna Migliorati. Europa 24 in collaborazione con Euronet Plus.